Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Allora, ti dico solo che è ufficiale, si chiama Pacifica, o forse Pacifica, non lo so bene esattamente Pacifica. In inglese. Esatto, no, Pacifica. No, è più americana. Pacifica. Però non ti dà questo nome un senso di relax? Se vuoi mettere non essere più preoccupata di dare la precedenza del volante, di quello che ti taglia la strada, della ricerca del parcheggio perché farà tutto lei? La nuova sì, auto allora, senza guidatore, senza conducente. Aspetta, ci penso. Intanto la visualizzo. Beh. Sì. No, allora, il nome mi dà qualche cosa di morbido, pacifica, perfetto, più che okay. di relax. Comunque mi piace, pensa. Benissimo. Potremmo scorrazzare. È una specie di supercar, insomma, esatto. come quella della mitica serie americana degli anni Ottanta, te la sì. ricordi? Sì, sì, infatti. Dove c'era Kit che guidava da sola senza il suo pilota. Senti come ti ricordi tutto. No, sì, perché io negli anni Ottanta c'ero. No, ma c'ero pure io, guarda, con quelle spalline. Nella permanente, figurati, e chi si discorda più quegli anni. Sì, questa è la nuova auto appunto di Fiat e Google, è già in sperimentazione negli Stati Uniti. Noi di auto anche parleremo tra un po' a Cuore Denari, perché pare che le vendite in Italia vadano molto bene, ma chissà che tipo di auto si possono permettere gli italiani in questo momento. Che dici tu? Lo scopriremo strada facendo e intanto raccontatecelo. Chissà se i nostri ascoltatori gradiscono la musichetta che accompagna la nostra rassegna stampa. Cominciamo con le notizie di denari. Anche stamattina vedo un po' di otto volante in borsa. Borse che ieri sono andate un po' male in Europa. Stamattina sono partite benino per poi ribruciare tutto. Allora, l'ultima notizia che arriva proprio da pochi istanti sui terminali finanziari riguarda il mercato valutario, perché la banca centrale cinese ha di nuovo fortemente svalutato lo yuan contro il dollaro. Si tratta della più consistente svalutazione dopo quella di agosto 2015, che aveva fatto molto male ai mercati, quindi qua dobbiamo riaspettarci di nuovo dei movimenti ballerini in borsa anche per queste notizie. Peraltro domani vi ricordo l'appuntamento con Investire Informati. La borsa invece è negativa in Europa, appena positiva Milano, più 0,04% sul FTSE MIB, tanto per cambiare, perdono terreno anche oggi tutti i titoli del settore bancario. A proposito di banche, ci sarà più collaborazione fra banche e forze dell'ordine per prevenire il fenomeno delle truffe finanziarie. È un tema molto importante perché ce ne sono ancora tante che si combinano ai danni degli anziani e di quanti hanno una scarsa educazione finanziaria. Questa collaborazione vuole promuovere delle precauzioni specifiche da adottare, per esempio quando si preleva contante e quando si fanno operazioni allo sportello. Suggerimenti e piccoli accorgimenti per usare in tutta sicurezza internet, il mobile banking, gli sportelli automatici, ma saranno resi disponibili anche numeri utili e saranno suggeriti comportamenti da adottare in caso di frode, furto, smarrimento delle carte di pagamento. Il tutto attraverso l'istituzione di specifici comitati sul territorio, per cui tenetevi pronti a questa novità. Allora, questo lo prevede appunto un protocollo d'intesa che è stato firmato ieri a Roma dal ministro dell'Interno Alfano e dal presidente dell'Associazione Bancaria Italiana Patuelli. Si lavorerà, ha detto il presidente dell'ABI, anche attraverso la promozione di iniziative specifiche di formazione e informazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio. Ne parleremo molto più dettagliatamente nei prossimi giorni e siamo in attesa di vedere il primo comitato sul territorio. Allora, fammi un po' vedere le tue banconote dentro il portafoglio. No, che tagli che hai? Tutti alti. Lo sai che oggi Mario Draghi ti vuole portare via quella da 500 euro, quella bella viola color purple, molto carina. Che non si incontra quasi mai, esatto. Diciamo la verità. Parliamone, perché praticamente a nessuno dei comuni mortali è mai capitato di maneggiarne una, è proprio un'esperienza rara. Allora, addio la banconota da 500 euro, una decisione che Mario Draghi, il presidente della Banca Centrale Europea, ha annunciato tanti mesi fa. Adesso ormai sembra pronta l'iniziativa a partire, a decollare, non si sa ancora bene la modalità con cui questo ritiro dal mercato verrà effettuato appunto di queste banconote da 500, o verranno ritirate così da un giorno all'altro oppure andranno a esaurimento naturale. Pensa che questa banconota, Nicoletta, è soprannominata Bin Laden proprio perché viene largamente utilizzata per attività illegali e questo è il motivo per cui viene deciso il ritiro. Sarebbe il bigliettone preferito da narcotrafficanti, riciclatori di denaro sporco e compagnia bella, e quindi oggi la Banca Centrale Europea deciderà come ritirare la banconota da 500 euro dal mercato, dalla circolazione. E adesso ci occupiamo un po' della nostra salute, del nostro benessere, consigli per mantenerci in salute o per recuperare il nostro benessere. Deborah, secondo te che aria si respira nel nostro studiolino della diretta? Qua dentro? Allora, quando entriamo noi c'è un bel profumo di fresco, di buono naturalmente, quando ci sono le brutte notizie, insomma, l'aria è un po' pesante, cosa vuoi che ti dica? Mi pare abbastanza salubre. Cioè, perché la salute dell'aria e dell'ambiente in cui lavoriamo è importante non solo per la nostra salute, ma anche per la qualità del nostro lavoro. Sì, l'aria immagino. Viziata diminuisce la nostra resa. E questo è secondo un recente studio condotto dalle università di Harvard e di Syracuse. Le funzioni cognitive diminuiscono con l'aumento del tasso di CO2. Quindi se siamo stanchi, facciamo fatica a concentrarci, siamo a corto di idee, meglio uscire, andare a fare due passi e una volta rientrati aerare con regolarità il nostro ufficio. Come a dire, Deborah, stanza areata, performance assicurata. Ma questa è un'aggiunta: se volete mantenervi intellettualmente vivaci e scattanti, puntate sul cioccolato, consumatelo regolarmente una volta alla settimana, senza esagerare, perché oltre a proteggere il vostro cuore, il cioccolato sembrerebbe capace di proteggere anche il cervello e di migliorare le funzioni cognitive. Quindi avanti col cioccolato. E adesso parliamo di mano, meglio di dita, nell'era digitale, della tecnologia. Alcuni disturbi cambiano nome, ad esempio il dito a scatto, ne abbiamo parlato tante volte, adesso diventa pollice da smartphone. A rischio naturalmente chi è solito inviare messaggi tramite il cellulare, che sta sempre con il telefonino in mano per consultare social o la casella di posta elettronica. Allora, il buon senso suggerisce: ogni tanto cambiate mano, usate anche la sinistra o la destra se siete mancini, e quando avete le mani libere dal cellulare fate un po' di stretching. Allora, vi suggeriamo due esercizi facili, rapidi ed efficaci, però fateli, mi raccomando. Allora, aprite la mano e chiudetela a pugno, fallo anche tu. Vado. Tenete la posizione per qualche secondo, poi apritela nuovamente. Attenzione, ricordatevi di tenere il pollice libero, quindi di non metterlo, brava, sotto le altre dita. Un altro esercizio rapido e molto efficace per sgranchire le dita è: aprite la mano e piegate le dita ad una, cercando di toccare con la punta la base di ciascun dito. Adesso liberi tutti, quindi potete scriverci un messaggio e ricordatevi che il dito con cui digitate denuncia la vostra età. Il pollice è usato dai più giovani, l'indice da chi ha superato gli anni. E infine chiudiamo la rassegna stampa con una proposta non indecente: se volete liberarvi dallo stress quotidiano, vi consigliamo di provare il Kung Fu. Con i suoi allenamenti che uniscono il corpo e la mente, è particolarmente adatto a chi vuole tenere sotto controllo i livelli d'ansia, ma non solo, i suoi benefici si riflettono anche sul corpo. Perché? Perché gli esercizi proposti rafforzano, tonificano la muscolatura e quindi migliorano l'equilibrio e contribuiscono a prevenire e anche a alleviare i dolori a livello lombare. L'appuntamento per saperne di più al Festival dell'Oriente, che è un evento molto importante proprio dedicato al mondo orientale e a tutti i suoi aspetti tradizionali e moderni in programma. Lo potete visitare nelle città di Roma e Milano e potreste anche incontrare il maestro. Si chiama Shi Yan Hui, che è un monaco guerriero, pensa Deborah, 34esima generazione. Ah, però. Che ci darà proprio un assaggio di questa antica disciplina, che tra l'altro è proprio riconosciuta da l'UNESCO come patrimonio dell'umanità. Per tutte le informazioni c'è un sito: shaolinquanfa.eu. Vedi che pronuncia facciamo perfetta, anche sei straordinaria. Di linguistica, infatti. Andiamo. Andava a 100 all'ora per trovare la bimba mia. Se avessimo fatto il domandone su come chiamano in gergo la banconota da 500 questa mattina, avremmo davvero fatto divertire i nostri ascoltatori, perché infatti avremmo sbancato, esatto, come si dice. In quanti ci scrivono, insomma. Samuele dice: la 500, non l'auto naturalmente, la banconota la chiamano Bin Laden perché non la vede mai nessuno. Samuele, probabilmente hai ragione. Infatti quando tu me l'hai detto io mi ero messo un po' a ridere, perché pensavo esattamente alla stessa, a questo a quello che diceva il nostro amico, invece Allora, mettiamoci un po' al volante invece stamattina, perché abbiamo scomodato Gianni Morandi. In questo paese in cui tutti sembrano continuare a stringere la cinghia su tutto, c'è un settore invece che da molti mesi ha ripreso a marciare, anche senza tutti quegli incentivi fiscali pubblici che avevano molto condizionato il mercato qualche anno fa. Ce ne sono di altro tipo di incentivi, sono quelli che fanno le case automobilistiche, adesso ne parleremo, e allora proprio parliamo del mercato dell'auto, che zitto zitto, mese dopo mese, cresce. Solo per citare l'ultimo mese di aprile, le matricolazioni di auto nuove sono cresciute dell'11,5% rispetto all'anno prima. Nei primi 4 mesi di quest'anno in Italia sono state vendute 687.021 auto. Che segnale è? Che auto comprano le famiglie italiane? Quanto possono mettere sul piatto per questo investimento? Nuovo o usato? Cash o con prestito? Intanto chiedo agli ascoltatori se ci vogliono raccontare se hanno fatto questo investimento di recente in casa loro. 800 24 00 24, il tema del nostro primo approfondimento di denari di stamattina. Poi vi anticipo già che intorno alle 11.20 ci legheremo appunto direttamente a questo primo approfondimento con il secondo, perché se ci sono famiglie che non possono fare a meno dell'auto, ce ne sono altre che invece scelgono proprio scientificamente di fare a meno dell'auto e nelle città dove è possibile si convertono alla filosofia della condivisione. Parleremo di car sharing più tardi, perché è un fenomeno che in tante città sta veramente avendo un grande successo, per cui... A tu che mi dici? Io dico che il tema è molto interessante. Noi parleremo anche di chi non va in macchina o va in macchina poco, decide di camminare, perché no correre. Parleremo di corsa, c'è un evento molto importante, due amici eccezionali che ci verranno a trovare. E a proposito di amici, parleremo anche di amicizia. Sembra che sia un antidolorifico straordinario. Benissimo. Vedi come sei fortunata. Un antinfiammatorio naturale. Infatti adesso, io sto sempre bene, vedi, se tu noti. Adesso vengo, ti tiro i capelli, voglio vedere come se la fanno nostra i bambini piccoli. È veramente solida. Allora, Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, buongiorno. Ovviamente il clima è molto più disteso di quello che non le lasciamo intendere con questa prima parte della nostra chiacchierata. Buongiorno intanto, buongiorno. Direttore. Benvenuto. Allora, grazie. Chiaramente abbiamo dovuto scomodare gli amici di Quattro Ruote per raccontarci come va questo mercato. Intanto dobbiamo sentire cosa succede sulle strade italiane, direttore. Poi racconteremo questo fenomeno delle matricolazioni italiane, cosa comprano le famiglie e soprattutto che cosa ne pensa. Glielo chiedo già in anticipo, così prepara la risposta dell'auto senza conducente, perché qua non vorrei che si arrabbiassero le scuole guida, perché non sarà più bisogno neanche di fare l'esame per la patente. Chissà che futuro ci aspetta. Cuore e denari. Facciamo la rivoluzione se ci va, ma niente come stare nella macchina. Allora sì, può anche essere vero probabilmente, però insomma andiamo verso questo futuro di auto senza conducente. Gianluca Pellegrini, direttore di Quattro Ruote, prima di esaminare il mercato dell'auto, l'andamento delle vendite in Italia, lei di questo accordo tra Fiat e Google, che cosa ne penso? Cosa ci aspetta? Penso che FCA ha fatto una mossa molto intelligente, nel senso che ha anticipato tutti quanti facendo l'alleanza con chi promette di cambiare completamente il settore dell'automotive, quindi con Google, perché loro hanno già, ormai stanno lavorando da parecchio tempo su questa auto a guida autonoma, e tutti quanti dicevano ma dovranno allearsi con qualcuno, perché alla fine studiare una macchina con la guida autonoma non è semplicemente un problema tecnologico, ma un problema anche industriale, cioè bisogna costruirla la macchina. E quindi tutti quanti si chiedevano con chi si sarebbero alleati. I primi a mettere il proprio piede nella porta sono stati quelli di FCA, insomma, merito a loro di aver saputo anticipare tutti gli altri. Sono veramente cambiate le cose per Fiat da qualche anno a questa parte. Detto questo, insomma, stamattina invece l'abbiamo interpellata, direttore, per esaminare insieme a lei un po' come sta andando il mercato dell'auto in Italia, perché può apparire una trasmissione magari non tanto a taglio di cuore e denari, invece molto un tema di denari, perché chiaramente si tratta, quando lo fanno per le famiglie, di un investimento importante, molto meditato, insomma, e il poi, budget. Guarda, fagli un graffietto alla macchina di mamma un uomo, mia. La tengono come... Uno, ci credo, mia. Portala dal carrozziere, che sono sempre dolori. Brava. Peraltro. Allora, direttore, come dobbiamo interpretare le cifre dalle quali siamo partite? Immatricolazioni in aprile cresciute dell'11,5%, ma è solo l'ultima cifra di una serie molto positiva che va avanti da molti mesi. Da che cosa è trainato il mercato? Quanto lo fanno le famiglie? Ma intanto, no, secondo me è fondamentale parlare di queste cose all'interno di queste trasmissioni, perché come dicevamo prima, come dicevate giustamente, l'acquisto dell'automobile è il secondo investimento dopo la casa per una famiglia, e quindi è giusto farlo in modo più oculato e ragionato. il mercato dell'auto sta andando bene, perché se noi guardiamo i primi 4 mesi sono più 19%. Chiaramente era difficile fare peggio di prima, perché l'automobile negli ultimi anni in Italia è letteralmente crollata per tutta una serie di cose. Sappiamo che il mercato dell'automobile è il primo a soffrire delle crisi economiche, sì. E così è stato anche in Italia. Adesso finalmente il mercato riparte, ma perché riparte? Due sono fondamentalmente le istanze fondamentali. La prima è il ritorno dei privati nelle concessionarie, che erano scomparsi per tanti anni. Praticamente per gli ultimi 4 anni la quota degli acquirenti privati, quindi delle vere famiglie, era molto bassa. Adesso, dalla fine dell'anno scorso, diciamo gli ultimi mesi 2015-2016, finalmente le famiglie hanno iniziato ad acquistare le macchine. Ma perché? Perché c'è stata una maggiore facilitazione dell'accesso al credito. Quindi le famose rate, le tante formule che adesso le i prestiti offrono. Finalizzati, che sono quelli che tipicamente vengono sottoscritti per un prestito per l'auto. Denaro costa molto poco in questo momento. Molte finanziarie delle case, direttamente gestite dalle case, fanno delle offerte molto incentivanti. Tra l'altro bisogna dire anche che i prezzi delle automobili sono molto favorevoli in questo momento. Davvero? Beh sì, perché noi per tanto tempo si è detto: ma perché non rimettiamo gli incentivi? Poi ci siamo resi conto che in realtà gli incentivi veri e propri li fanno i costruttori. Bravissimo, infatti volevo proprio che ci facesse anche una panoramica su questo. Che tipo di incentivi mettono in campo le case automobilistiche, direttore? Ecco, che ci faccia qualche esempio, tanto per capire, anche per orientare i consumatori che magari nei prossimi mesi faranno l'acquistone. Allora, usare la parola sconti non piace molto a chi fa questo. Loro preferiscono usare incentivo, delle formule alternative, diciamo degli incentivi fatti direttamente da chi produce le macchine. Però è chiaro che, per esempio, tantissimi costruttori, anche nella fascia bassa del mercato, fanno i tassi zero. Il finanziamento a tasso zero su macchine che costano relativamente poco, qui diciamo nella fascia fra i 10 e i 15 mila euro, significa poi avere una rata mensile da 200 euro. Insomma, che sono abbastanza avvicinabili alla maggior parte delle famiglie. Tant'è vero che noi vediamo che la struttura del mercato è molto portata verso il basso, cioè l'automobile più venduta in Italia è la Fiat Panda, e poi è seguita da tante macchine del segmento B, che sono diciamo quelle che una volta chiamavamo utilitarie, adesso non sono più utilitarie, sono city car con le quali si può anche viaggiare senza nessun problema. Quindi in realtà la struttura del mercato indica come le famiglie si indirizzano verso quel particolare tipo di mercato. È chiaro che rispetto all'Europa noi siamo un po' diversi, cioè in Europa le macchine che si vendono di più sono quelle del segmento C, cioè le medie con il portellone. Per citarne una, l'esempio proprio paradigmatico è la Golfstream. Ho capito. Mentre noi in Italia siamo più portati per le macchine più piccole. Vabbè, d'altronde abbiamo anche queste necessità, dato anche il tipo di tessuto stradale che dobbiamo percorrere, oltre che il budget delle famiglie. Però mi incuriosiva molto la questione degli incentivi di cui parlava, direttore, perché appunto in realtà i brand automobilistici, i concessionari, le case automobilistiche puntano sullo sconto nel prodotto finanziario allegato all'acquisto più che sullo sconto dell'auto. I prodotti finanziari sono fondamentali, anche perché le case hanno capito che possono guadagnare non soltanto vendendo il pezzo di metallo, cioè l'automobile, ma vendendo poi tutta una serie di soluzioni finanziarie con tutto quello che è legato. Cioè, per esempio, molti finanziamenti sono legati anche alle assicurazioni. Uno può comprare all'interno del finanziamento e anche lì c'è un vantaggio. Però noi ogni mese praticamente analizziamo un settore di mercato, appunto per aiutare le famiglie a fare i migliori affari. Ci rendiamo conto che su macchine che costano, per esempio l'ultimo mese abbiamo fatto l'esempio delle macchine diciamo intorno ai 30.000 euro, ormai su una macchina da 30.000 euro si possono risparmiare 9.000 utilizzando tutto appunto il sistema di offerte speciali, accessori compresi nel prezzo di listino, lo sconto per rottamazione oppure lo sconto per la prima volta usato, lo sconto del concessionario, perché poi alla fine comunque il concessionario è un imprenditore indipendente rispetto alla casa e lui può decidere di fare certamente, infatti, preferisce. Di conseguenza, per chiaramente tenersi un cliente deve trovare tutte le soluzioni possibili. Stiamo andando verso la chiusura, direttore. Per quello che riguarda il mercato dell'usato invece in Italia come va? Il mercato dell'usato va decisamente bene e noi abbiamo un grandissimo problema in Italia, e noi questo l'abbiamo denunciato da parecchio tempo: il fatto che il nostro parco circolante è vecchissimo infatti, rispetto alla media europea. È vecchissimo per una serie di ragioni, la principale delle quali è che c'è stata una crisi che ha bloccato il ricambio del circolante, La seconda è il fatto che il sud d'Italia effettivamente è molto bloccato, è molto fermo rispetto al resto. Cioè, mentre noi vediamo che le vendite, ma non soltanto le automobili, in tanti altri settori merceologici sono ripresi nel nord e nel centro, invece al sud continuano a stentare. E nell'automobile, dove dicevamo prima l'investimento è alto, ecco, lì il mercato si è completamente fermato. Lì al sud invece l'usato continua a tirare molto forte. Difatti noi vediamo in continuazione queste grandi bisarche di automobili usate che vanno dal nord verso il sud, perché lì che c'è un mercato dove si possono piazzare. Insomma, analizzando il mercato dell'auto possiamo ben analizzare anche il tessuto sociale ed economico appunto del paese a 360 gradi. Direttore Pellegrini, grazie per essere stato con noi. Torni presto a trovarci. Grazie molte. Noi intanto andiamo ad ascoltare il giornale radio e poi ritorniamo subito dopo. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sì, un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo di una partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. E la passione continua anche la domenica dalle 17 alle 19. Sono Giovanni Capuano e vi aspetto, tutti convocati weekend, facciamo il primo processo a quello che è successo in campo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Quale sarà il futuro di Milano? E di Roma? E Torino? Napoli? Bologna? Dall'8 al 29 maggio non perdere la programmazione speciale di Radio 24 per le elezioni amministrative. Reportaggi, interviste, inchieste e approfondimenti quotidiani dei nostri inviati per capire, confrontare, interrogarsi e scegliere chi guiderà le nostre città. Da Roma a Milano, passando per Torino, Bologna e Napoli, viaggia con noi verso le elezioni più discusse del 2016. Segui le amministrative di Radio 24. Dai valore al tuo voto. Cuore e denari. Debora parcheggia. Sì, certo. Ci fermiamo. Sì, ecco, okay. E andiamo di corsa. Aspetta a salutare che metto la freccia. I nostri due amici che si stanno preparando per un appuntamento che farà correre tutto il mondo nello stesso giorno e partendo nello stesso istante. È una corsa, ma potrei chiamarla maratona o ultramaratona, perché chi corre in fondo che decide la distanza. Obiettivo naturalmente è partecipare e correre per chi non può farlo. Si chiama Win for Life World Run, questo è il nome della competizione, e il suo obiettivo è raccogliere fondi per le lesioni al midollo spinale. Insieme a noi abbiamo il testimonial italiano di questa manifestazione, il grande Giovanni Storti. Ciao Giovanni. Grazie, ciao a tutti. Wow, grande, che corri, grande, perché scusa, anch'io bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, certo. E accanto a lui il suo compagno di avventure, allenamenti e direi di scrittura, Franz Rossi. Ciao tutti. Franz, grazie. Ciao. Il running guru. Ciao ragazzi. Senti Giovanni. Buongiorno a voi. Buongiorno, sì. E grazie per essere con noi. Vogliamo sapere tutti perché. Allora, intanto tu per il terzo anno di fila partecipi a questo evento e sei il principale testimonial italiano insieme a Giorgio Calcaterra. Calcaterra che è un vero atleta, io mi lanto delle cose, quindi. Ma senti, tu intanto la corsa la fai e noi no, quindi sì, qualche motivo c'è. Senti, allora, quindi è il terzo anno consecutivo. Sì, sì, vabbè, ho avuto un contatto 3 anni fa, giusto appunto, e mi sembrava una corsa molto interessante, particolare, vabbè, poi per uno scopo molto importante e in cui tutto ricavato va devoluto interamente a questa ricerca per le lesioni dell'osseo. Certo. La corsa è particolare perché tu parti e non hai un traguardo davanti, ma hai una macchina che parte mezz'ora dietro, la famosa catcher car, che ti segue e va a 15 all'ora e quando ti prendi ti deve fermare, per cui insomma il traguardo è un pezzo di te. E la corsa diventa interessante perché così puoi verificare quanto riesci a correre. Praticamente corri preoccupato e inseguito, Franz. Corri inseguito. Ecco, mi sembra un po' impegnativo correre con una macchina alle calcagna, non è ancora la nostra, quella pacifica. Senza, esatto, quella senza conducente, ma magari. Ecco. Anche a livello mentale, Franz, credo che cambi completamente l'approccio. Eh sì, perché noi ci tariamo, quando iniziamo una qualsiasi gara, ci tariamo sulla distanza che stiamo per percorrere. In questo caso la distanza è indeterminata, quindi non siamo mai pronti a passare il limite. E quindi questa è una cosa che ti mette angoscia. E via via che la macchina si avvicina, cerchi di accelerare, e ovviamente sei sempre più stanco, per cui diventa davvero complicata. È una gara unica nel suo genere. Senti, Giovanni, io ho letto che tu nelle altre edizioni hai fatto 27 chilometri l'anno scorso, quindi ognuno corre fino a quando può, non certo, si può definire né una maratona né una supermaratona, per alcuni sarà una supermaratona e per l'altro quasi una corsa campestre. Assolutamente, ognuno si tara rispetto alle sue possibilità e potenzialità, se poi a correre con un po' di amici in allegria, ti puoi veramente misurare in modo bizzarro con questo meccanismo, perché in realtà questa che cercare, bisogna dirlo, non è che ti schiaccia, si affianca e ti devi fermare, perché se no sì che dovresti correre il più possibile. Infatti sì. L'ha fatta mia figlia, l'ha fatto 11 chilometri, poi c'è Calcaterra che fa quasi 80 chilometri, quindi è una grande possibilità di misura. Tra l'altro quest'anno viene fatta a Milano, la maggior parte viene svolta in centro, poi si va verso Pavia, per cui è anche bello correre nella propria città. Senti, ecco. Vi sentite pronti, allenati? Perché Giovanni, tu sei in giro per lo spettacolo per i 25 anni del trio, e io come si fa a conciliare le prove serali, la stanchezza magari, no? È vero che hai un allenamento insieme a Franz che è straordinario, cioè certo. Correre con lui aiuta, però in sostanza come fai? Ma diciamo che è un segreto quest'anno, perché la corsa parte passa sotto casa mia, e quindi ho deciso di fermarmi, anche perché la corsa parte alle 13, perché si svolge in tutto il mondo, quindi hanno tarato degli orari, certo. Per poter fuso. Io alla sera ho lo spettacolo, non posso cercare di correre troppo, quindi attorno al 10° chilometro passo sotto casa e ho deciso di salire a casa e fermarmi lì, che sia arrivata la macchina o no. Ho questa strategia quest'anno. Senti, ma c'è tra l'altro avete deciso anche di dare un'opportunità in più ai partecipanti, perché da runner potrebbero diventare comparse. Raccontami bene. Ah sì, beh sì, io... No, perché con Deborah innanzitutto... volevamo partecipare. Questo certo, ci guarda, ci abbiamo già le scarpe pronte. Guarda, bella sorpresa quel giorno. Ma è nata questa cosa perché ci hanno raccontato che in Germania un attore regista ha proposto che chi correva nella sua squadra, perché i testimonial hanno un po' delle squadre in cui ci si può iscrivere, avrebbe partecipato al suo prossimo film. E allora io ho parlato con Aldo e Giacomo, dico: ma scusate, noi cosa siamo, da meno dei tedeschi? Assolutamente allora abbiamo... no, lo spread, lo spread teatrale o cinematografico non sia mai, ecco. Non sia mai. Quindi ha detto: chi corre nella mia squadra e riesce a essere preso per ultimo dalla macchina parteciperà come comparsa al prossimo nostro film. Quindi... Senti, ma Giacomo e Aldo sostengono, stanno a guardare, perché Giacomo corre, il più bello del trio, è anche un atleta. Come è il più bello del trio? Sì, per me sì. Non sprechiamo le parole. Parole in libertà, proprio. Diciamo che corricchia, si trascina tra ma una non telefonata è vero. E l'altra. Non è vero, te lo dico io, e quindi non partecipa. Poi dice che è stanco, Aldo dice che non ha voglia di correre, e purtroppo non sono riuscito a trascinarli. Sai, la tournée è faticosa, e questa gente qua ormai non ha più il fisico, l'energia, non ha più il fisico. È così, guarda, no. Capita anche così. Vanno avanti solo i migliori, Giovanni, è così. È un po' così, insomma. Senti, Franz, invece da te avrei bisogno di qualche consiglio. Perché ti chiamano? Innanzitutto vorrei capire perché ti chiamano il Running Guru. Running Guru è nato all'interno di una trasmissione televisiva che ho fatto l'anno scorso, e non sapevano bene come definirmi, e mi hanno appioppato questo nome di Running Guru. A me un po' piace, perché io sono molto più attento agli aspetti così spirituali, se vuoi, della corsa rispetto a quelli fisici, perché non dimentichiamo mai che i due meccanismi funzionano assieme, per cui più sei forte con la mente, più sei rilassato, meglio poi vai anche da un punto di vista di prestazioni. È vero, e si intravede, no? Certe cose, pensiero sulla corsa e anche sul cammino sono proprio racchiuse nell'ultimo libro di cui abbiamo parlato e che lo ricordo perché è un libro bellissimo, Una seducente sospensione del buon senso. Grazie. Senti, però, allora, io ti ho ricordato il libro che a me è piaciuto molto, che ho letto con interesse, anche a Deborah è piaciuto, sì. Però tu, prima di salutarci, dato che sei il running guru, insieme al tuo amico, perché poi noi parleremo anche di amicizia, dateci tre consigli. A Giovanni chiedo di aiutare chi magari ci sta ascoltando, sta accarezzando l'idea di allacciarsi le scarpette, ma non è ancora deciso perché fa i conti con un po' di pigrizia, poi dice non troverò magari il tempo e se poi non sono costante non ho ancora dubbi se farlo al mattino o alla sera. Giovanni, ti lascio la parte più difficile. Ci si può fare quando si vuole. Io per esempio, non so, Franz preferisce la mattina, io preferisco la sera, per dire. Per cui non c'è un orario. Quando riesci a ritagliarti un po' di tempo, corri. Il mio consiglio è non partire subito correndo, ma camminando e correndo, così che il corpo si abitua un po' a questo tipo di movimento e poi se ti piace tutto viene veramente da solo, tutto scivola via. Senti, scivola via. Tra l'altro tu ti definisci un runner tardivo. È vero? Io sì. Quindi non è mai troppo tardi? Non è mai troppo tardi, veramente. Io prima pensavo che la corsa fosse una noia mortale e poi invece verso i 50 anni, pensa, ho scoperto che era un meccanismo molto interessante, ma anche per diventare più tenace, più meditativo. Quindi così. Benefici più a livello mentale, psichico che fisico? No, beh, fisico sicuramente. Perché il muscolo viene scolpito, Giovanni? No, perché in realtà noi da migliaia di anni siamo fatti per camminare, per muoverci, non siamo mai stati sedentari, non siamo come i gatti o come, non so, noi siamo fatti per muoverci, quindi certo la corsa è un meccanismo un po' più evoluto, però il movimento è basilare per la salute del corpo. Beh. E quindi se tu unisci queste due cose, insomma, voilà. Fai già un hai fatto centro. Racconta hai noi lui. Senti, Franz, invece a te chiedo di dare tre consigli a chi si sente pronto per una maratona, magari ne ha già fatto un paio, si sente proprio il maratoneta, quelli che quando incontri ti dicono subito, ancora quasi prima del loro nome, che corrono, te lo fanno capire. E ti dicono quanto tempo hanno in maratona, ok? Bravo, allora, ne conosciamo con Deborah. Tre consigli telegrafici, pensando un po' alla Wings for Life di domenica, ma in generale alle gare lunghe. La prima cosa, non aggiungete maggior ansia quando correte, dovete correre rilassati. Per correre rilassati la cosa più importante è dimenticare il cronometro, il ritmo dovete sentirlo, non dovete cercarlo. Quelli che guardano l'orologio ogni 10 secondi alla fine mettono ansia, per cui lasciate perdere il cronometro, guardatelo una volta ogni 5 km e andate via tranquilli. La seconda cosa, focalizzarsi sul ritmo, nel senso di proprio il movimento, la piacevolezza del movimento che viene ripetuto. In questa maniera la testa si libera, non deve pensare ad altro, i chilometri passano più velocemente, si corre in maniera con una postura migliore e vengono un sacco di belle idee, per cui è la famosa forma di meditazione in movimento. Ultimo consiglio, siate sempre presenti a voi stessi, siate presenti al vostro corpo, ascoltatelo, sentite quando i piedi si appoggiano al terreno, sentite il sudore che esce dalla fronte, che serve a termoregolarsi, quindi a regolare la temperatura, sentite la fatica che aumenta, che non dimenticare mai che la fatica fa parte del gioco, è uno dei nostri traguardi, quelli di far fatica durante la gara, e ascoltate il dolore sono dei piccoli segnali che manda il corpo, non deve essere una cosa che ci spaventa, è un'indicazione, ascoltate, se diventa troppo forte fermatevi, se no usate, concentratevi, correggete la postura, ascoltate il vostro corpo. Grazie. Giovanni, secondo te ne ha tenuto qualcuno di qualche suggerimento segreto? Le ha dette tutte? No, no, è stato bravo, le ha dette tutte, è proprio così. Certo, in alcune gare la competizione ti travolge e poi puoi arrivare a fare veramente bene, quindi magari esageri, ma in linea di massima sono assolutamente d'accordo con lui. Quando ti senti rilassato e devi arrivare a questo, tutto il corpo è rilassato, cioè le cellule, capisci, sentono la tua tranquillità e quindi sono tranquilli anche loro e ti danno una prestazione migliore. Allora, è così, è semplice, è così. Semplice e soprattutto è una passione, e le passioni sono in genere delle terapie per il corpo e per la mente. Allora, non so se si possa dire in bocca al lupo, però siamo con voi. Bene, grazie. Un abbraccio a Giovanni e a Franz. Chissà se è finita questa competizione. Deborah, come torneranno a casa? Allora, ragazzi, sentite un po', cioè, aiutatemi a fare il lancio del prossimo approfondimento di Cuore e Denari. Usate a Milano il car sharing? Avete mai sperimentato questa nuova formula di condivisione dell'auto? Oppure voi correte, guarda, e basta, o al limite prendete un taxi? Io il 90% vado in giro in bicicletta. E quindi... Con quella condivisa anche a Milano hai la tua? Perché tu sai che c'è anche Bike Me a Milano. No, lui ha la sua, sì, non no, condivide. Non è condivisa, però mi sono abbonato a tutti i car sharing possibili, ma poi non ho mai... Non hai mai fatto... vabbè, però insomma l'intenzione c'è stata. Franz? Io sono anche un appassionato di Bike Me, io uso il bike sharing perché preferisco muovermi fondamentalmente, fare attività anche quando mi sposto, e in centro a Milano è comodissimo arrivare, prendere la bici e mollarla. Il concetto di car sharing è un concetto bellissimo, che va sicuramente spinto. E infatti ci proviamo anche noi oggi con il prossimo approfondimento del nostro programma. Intanto salutiamo i ragazzi, nuovo rinnovato in bocca al lupo ad entrambi. Alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao. Fateci ciao. Sapere di voi. A presto. Ciao. La bella stagione si sta facendo largo e insieme al cambio del nostro guardaroba dobbiamo ricordarci di rivestire anche la nostra auto, preparandola alle temperature estive. Dal 15 aprile sono infatti scadute le ordinanze che obbligavano a circolare con pneumatici invernali o catene a bordo. Li dovremo sostituire con la versione estiva, più adatta e sicura, che garantisce uno spazio di frenata ridotto fino al 20%, oltre a vantaggi economici e ambientali, con un consumo più contenuto del carburante e delle gomme stesse. Naturalmente, la scelta dovrà sempre avvenire in base a quanto indicato dalla nostra carta di circolazione. Chi continua a circolare con pneumatici invernali rischia non solo una multa salata, ma anche il ritiro della carta di circolazione e l'invio in revisione del veicolo. Non preoccupatevi se non avete ancora provveduto. Viene concesso un mese di tolleranza. Avete tempo fino al prossimo 15 maggio. È un promemoria che ci sembrava importante offrire ai nostri ascoltatori in questa puntata che vede i temi di denari in gran parte dedicati all'auto, quindi attenzione, tempo di cambiare le gomme, naturalmente mettere quelle in versione estiva, sostituire appunto dalla versione invernale. Ora però pensiamo a chi invece non ha bisogno dell'auto, che non la deve comprare o non vuole comprarla per una precisa scelta etica. Come sapete, oggi fra le soluzioni più gettonate c'è quella del car sharing, che in verità per chi la adotta appunto lo fa proprio per forse precisa scelta etica più che economica, ma insomma mettiamo insieme tutte e due le condizioni. Questo è un servizio che, per chi lo conosce, consente di prendere un'auto, solitamente la si prenota online o con una app, un'applicazione, si paga solo il tempo effettivo di utilizzo. Vetture anche elettriche ci sono disponibili appunto fra le città che rendono disponibile questo servizio, è un altro segmento anche questo che sta crescendo molto. Le città grandi sono partite da tempo, ci sono i servizi pubblici e privati, ma per chi non conosce il car sharing come funziona, c'è una collega del Sole 24 Ore che è un'attivissima sostenitrice e fruitrice dello sharing automobilistico su Milano, e si chiama Francesca Milano, peraltro. Ciao, benvenuta. Eccoci, buongiorno. Allora, vedi, insomma, vedi che colleghi virtuosi che abbiamo. Francesca, allora intanto invito gli ascoltatori a chiamarci all'800 24 00 24 per capire se appunto hanno mai sperimentato la pratica del car sharing, e ti chiedo di raccontarci tu come ti sei avvicinata, per curiosità giornalistica o perché a Milano sappiamo bene con l'auto è abbastanza difficile vivere, per cui soprattutto per me l'incubo è quello del parcheggio, perché per il resto alla fine è anche una piccola città dove si circola a parte certi momenti tutto sommato anche abbastanza bene. Tu? Io mi sono abbonata al primo car sharing che è arrivato a Milano nel 2013, se non sbaglio, proprio alla prima settimana promozionale. Quindi perché sono ami le novità. Non vedevi l'ora. Perché però. Amo le novità, perché non avevo un'auto e quindi ho trovato comunque un mezzo comodo. E, però avevo in mente di comprare un'auto più o meno in quel periodo. E, ma l'utilizzo del car sharing mi ha fatto cambiare idea totalmente. E quindi non ho più acquistato un'auto privata, mi muovo con i mezzi pubblici fondamentalmente, ma anche tanto con il car sharing, perché trovare un'auto appunto tramite le app, quindi tramite il telefonino, è molto semplice. Devo dire quante app hai intanto sul tuo smartphone, tanto per capire anche quanti servizi sono allora, disponibili su Milano e anche per sapere come va il suo pollice perché a forza di esatto. Di consultare ce ne sono tantissimi di servizi a Milano, sono ce ne sono aggiunti negli ultimi mesi anche dei nuovi anche elettrici, e qualcuno si è anche però esatto, io ne ho tre di cui ho attivi due, perché uno non è più attivo. Con due gestori mi trovo benissimo, nel senso che tra l'uno e l'altro trovo sempre una macchina a disposizione in un raggio percorribile a piedi tranquillamente, quindi faccio una mini passeggiata e arrivo al primo veicolo diciamo disponibile in tempi brevissimi. Certo. Allora, le hai provate quindi tutte quante quelle che erano disponibili su Milano. Sì. Facciamo un po' una mappa geografica in Italia. Quante città hanno attivo questo servizio fino ad ora? Le grandi Francesca? Città tutte, in particolare il primo gestore che è arrivato in Italia, che è Car2Go, ha aperto appunto anche in città più piccole come Firenze, per esempio, città dove magari uno può pensare di andare in bicicletta o muoversi o godersi a piedi. Esatto, però anche lì è disponibile il car sharing per chi vuole. E, devo dire che per esempio, facendo l'esempio di Car2Go, ma poi parleremo anche degli altri, Car2Go è un gestore che è presente anche all'estero e con la tessera che ti permette di aprire l'auto puoi usare l'auto anche all'estero, quindi a me è capitato anche a Londra per esempio. Ti sei ritrovata con la stessa applicazione di poter trovare un'auto che ti serviva. Sei anche una bella figura, no? Sei proprio una donna internazionale, moderna, cosmopolita. Vedi? Direi incredibile. Fuori ecco la quindi tesserina. Renditi conto quando siamo rimaste indietro io e te, che non ce ne abbiamo neanche una. Vabbè, no, io ho opzionato diciamo per l'auto mia, però ho sfruttato molto spesso anche le altre opzioni con amici e non solo, per cui devo dire che effettivamente sì, ecco, con amici è un tema interessante, perché secondo me, allora io magari spesso la utilizzo da sola, per cui è un costo che appunto mi sobbarco io, non è un costo eccessivo perché abbiamo detto che comunque si paga il tempo, soltanto il tempo di utilizzo, sono pochi centesimi al minuto, per cui è un costo assolutamente sostenibile. A parità di biglietto del tram? Allora io ho fatto un calcolo, perché ovviamente ho fatto tutte le mie valutazioni, le simulazioni possibili. Assolutamente sì. E, allora il biglietto della metropolitana qui a Milano costa 1,50 euro, il tragitto da casa al lavoro a me costa sui 2 euro, 2,50 euro in base al traffico, non prendendolo tutti i giorni, è una spesa assolutamente sostenibile. Stavo facendo il colco per sapendo dove abiti, visto che lei abita vicino a casa mia, adesso non stavo più, davvero? Sì. Ma qua che notizia che abbiamo perché dato anche stamattina, perché adesso che ha trovato, no, che si sposta così facilmente la distanza non conta più. No, infatti allora aspetta un attimo Francesca, ci sono molti ascoltatori che vogliono sapere come funziona, se hai la disavventura, se la rompi, se hai l'incidente, quanto costa per il carburante, come funziona se non ti si apre. Chiaramente qua non dobbiamo parlare solo di vantaggi, ma anche la possibile rosa delle disavventure, come gestirle. Devo raccontare i mercati adesso, ma racconto anche che per esempio uno dei servizi disponibili, quello di Enjoy, renderà presto a disposizione, metterà presto a disposizione appunto degli utenti che fruiscono di questo servizio su Milano le macchinine con anche il seggiolino per i bambini. C'è una partnership con la più grande azienda appunto che conosciamo per i prodotti per i bambini. Hanno e quindi fatto bene, perché esatto. Così hanno allargato il mercato. Guarda, giusto, per Debo? Trovare l'auto più vicina basta selezionare il filtro con seggiolino nella schermata prenota un veicolo, senti questo, oppure visualizzare direttamente dalla mappa l'icona a forma di ciuccio. Ah, fantastico. Senti, ma i cani si possono portare? No, I cani non si possono portare, non si può fumare, è una cosa importante che voglio dire. C'è la multa. Io spesso ho segnalato, perché c'è la possibilità di mettersi in, di connettersi con il servizio clienti all'interno delle auto, io spesso ho segnalato di aver trovato sporco, di aver trovato appunto puzza. Dobbiamo raccontarlo al dottor Boffi questa, perché sarà molto contento. Intanto andiamo ai mercati, poi continuiamo ad esplorare il mondo del car sharing. Tra poco. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, due precisazioni sul cambio dei pneumatici, il tema dell'obbligatorietà, qua sempre un concetto che dobbiamo proprio spiegare con grande precisione ogni volta che affrontiamo questo argomento a Cuore Denari. In passato a Salvadanaio c'era sempre il, come dire, il dibattito su è vero che è obbligatorio, allora è altamente consigliato, dipende anche da quando indica, da quanto indica la vostra carta di circolazione, quindi non abbiamo detto un'inesattezza. Andate a vedere questo documento, soprattutto tutte le informazioni corrette noi le abbiamo prese da il sito appunto dell'associazione appunto di settore, per cui andate a controllare. E adesso mi faccio ricordare da Marco appunto esattamente il sito da cui abbiamo tratto appunto le informazioni, è pneumatici sotto controllo, per cui andate a verificare e vedete appunto se è il caso di fare o meno il cambiamento, e poi assumetevi anche i rischi di non farlo se dovreste, se dovete anche, come dire, frequentare o guidare su strade che magari non sono troppo sicure per la tipologia di gomma che avete sull'auto. Detto questo, chiusa la polemica, torniamo al nostro car sharing, come sempre tanto interesse da parte dei nostri ascoltatori. Sento subito Stefano da Milano, poi continuiamo appunto con Francesca Milano del Sole 24 Ore, visto che direttamente ne fa un grande uso tutti i segreti di questo mondo, perché ancora non avesse avuto il piacere di conoscerlo. Stefano, benvenuto. Ciao, buongiorno a tutti. Sì. Io abito a Milano, 45 anni, e sono assolutamente felice di tutte queste possibilità che la città offre recentemente di condividere mezzi di trasporto, che combinato con i mezzi pubblici che sono, diciamo, aumentati tantissimo dopo Expo, rendono praticamente raggiungibile qualsiasi punto della città senza macchina. Meno male. Io per una volta tanto Guidami prima usavo Guidami, che era il primo car sharing del comune di Milano, che dava anche la possibilità di fare corsie preferenziali, per cui era fantastico. Dopo questa possibilità è stata tolta e aveva l'inconveniente di dover rimettere la macchina nello stesso posteggio da cui si prelevava. Poi è arrivato Car2Go e Enjoy e li abbiamo di nuovo ricitati tutti. Grazie Stefano. Certo, mi pare di capire, Francesca, che chi poi lo prova non lo abbandona più. No, anche se ci sono dei problemi da risolvere. Ecco, allora andiamo ad elencarli, perché sennò qua sembra che facciamo lo spottone a queste aziende. Chi li usa lo sa, appunto. Io, a me è capitato varie volte di arrivare a un'auto, quindi magari fare un piccolo tragitto a piedi per raggiungere un veicolo, arrivare lì, cercare di aprire l'auto e per problemi di connessione, visto che le auto sono connesse al server di gestione, al sistema di gestione, un cervellone centrale, esatto, per problemi di connessione l'auto non si apre, quindi tu chiami il servizio clienti, perdi un po' di tempo e ti dicono te lo sbloccano lì oppure devi cambiare a auto. A volte non riescono a sbloccarlo, quindi deve arrivare l'omino. Sì, ovviamente se hai fretta e tu dici ciao, insomma perdi la possibilità di prendere quel veicolo, devi cercarne uno nuovo, quindi può succedere qualche piccolo inconveniente tecnico, può succedere, a me è successo utilizzandolo abbastanza spesso, di prendere qualche multa, perché che ti paghi tu ovviamente, assolutamente . E allora come funziona? Esatto, le auto del car sharing possono essere parcheggiate, pagano loro e ti viene attribuita sulla carta, possono essere parcheggiate in tutti i posti, sia per residenti infatti, che a pagamento, senza pagare ovviamente, però mentre in un divieto di sosta ovviamente non si può parcheggiare. A me è capitato e la multa arriva a casa, viene notificata a casa, quindi poi ci sono i tempi normali di, diciamo, di pagamento del... Perché insomma sei tracciatissima nel tuo percorso, per cui in quel momento... Assolutamente, sei responsabile del veicolo, esatto, da quando lo prendi a quando lo parcheggi, quindi devi stare attento anche a dove lo metti, assolutamente. Per esempio il lavaggio strade, a me è capitato una volta con il lavaggio strade, non avevo calcolato che quella sera avrebbero lavato le strade, nessuno dopo di me ha preso il veicolo, perché magari uno spera che qualcun altro, qualche altro utente via, se la porti via, nessuno l'aveva utilizzata, per cui l'auto è stata trovata lì, l'ultima utilizzatrice errori c'ero io ed io sono responsabile, certo, di quello. Il carburante, Francesca, chi lo mette? Il carburante lo mette il gestore, così come l'assicurazione, per esempio. Ma come fanno? Non può capitare che tu arrivi e trovi quasi in rosso? Allora, e sull'applicazione si vede quanta benzina c'è in ogni singolo veicolo, per cui tu, se devi fare un tragitto lungo e vedi che c'è poca benzina, forse ti conviene non prenderlo, anche perché c'è una differenza. Un gestore ti permette eventualmente di fare benzina attraverso una carta di credito che è all'interno dell'auto, quindi tu puoi andare a fare benzina, e tra l'altro se fai benzina e quindi, diciamo, utilizzi qualche minuto, sprechi qualche minuto, in questo modo ti vengono regalati dei minuti in più. Ma che carino. Mentre un altro gestore non permette all'utente di fare benzina, per cui insomma se ne occupano loro direttamente. Di notte ci sono, io li ho visti, li ho incontrati fuori dal giornale una sera, questi addetti che si occupano di ripopolare la città, perché loro rimettono le auto nelle zone più richieste, perché magari le parcheggiano cercando di rendere possibile, sì, a tutti, esatto, tutta la città, e poi, quindi poi ritornano alle ville e le portano anche per il rifornimento, quindi le portano anche dal benzinaio di notte. C'è questa vita notturna del car sharing che... Hai capito. Senti, stiamo andando verso la chiusura, Francesca, solo per accontentare quegli ascoltatori che chiedono in caso di incidente. Allora, tu vieni tamponata, naturalmente constatazione amichevole, una cosa tranquilla. Sì. Cosa succede? Invece andiamo poi magari a casi un po' più problematici. Beh, allora, come nelle auto private, bisogna fare la constatazione e fare tutte le procedure normali. Ovviamente si è coperti da un'assicurazione, perché l'assicurazione, che appunto dicevamo, non si paga, perché è compresa nella tariffa al minuto che l'utente paga, comprende anche l'assicurazione, per cui è tutto diciamo sotto controllo. Ovviamente ci sono delle franchigie da valutare. Ma se insomma graffi tutto uno sportello per tua imperizia? Allora, quando si prende un'auto si deve segnalare in che condizione si trova l'auto. Ecco, quindi come fai? Sennò... C'è un computerino di bordo attraverso cui, ma è facile, davvero facile, attraverso cui quante puoi cose segnalare. Perché noi le sappiamo tutte stamattina tutte insieme, Nicoletta, lei che è da 3 anni invece che viaggia. Sì, piano piano ormai... si impara, tu segnali se hai trovato un danno sull'auto. Quindi se puzza, se sì, è disordine, se hai segnato un danno. Diciamo, un danno sulla portiera, sullo specchietto, cose del genere, e ovviamente i danni importanti vengono attribuiti a chi li ha causati, quindi in quel caso per esempio all'utilizzatore precedente, però loro lo fanno per monitorare lo stato dei veicoli, cioè non è che ogni graffio viene poi risarcito, non bisogna, ecco, non, da questo punto di vista se si guardano le auto del car sharing sono auto in ottimo stato, ma sono auto da battaglia, sono auto che fanno tanti chilometri. Allora, al le raccomandazioni fondamentali che possiamo dare dopo questa chiacchierata con te: se ci serve un'auto e la vogliamo prenotare con l'applicazione del car sharing, intanto se vediamo un bel danno segnaliamolo subito, magari la società lo sa già, però noi per non saperne leggere né scrivere rifacciamo la segnalazione, se ci fumano dentro segnaliamo lo stesso, il carburante dovrebbe già quasi sempre esserci, occhio alle multe, occhio anche a dove la parcheggiate, perché non è che possiamo farla franca in ogni via. Infatti, senti, infatti, non mi hai raccontato, perché hai iniziato a dire io lo uso spesso da sola, ma per gli amici, ecco, perché noi di amicizia parleremo tra poco, tra l'altro. Allora, per gli amici è molto comodo, soprattutto, allora, ci sono le smart che ovviamente sono per due, ma ci sono anche le auto per 4 persone, per cui se si va a cena, a un concerto o comunque da qualche parte, ci si può andare tutti insieme, a quel punto uno paga ma si può dividere la spesa, insomma è un mezzo molto comodo anche da sharare, sharing, tutti gli effetti, da condividere, sì, assolutamente. E poi volevo ricordare, a proposito di possibilità, quindi auto a 2 posti, auto a 4 posti, ci sono anche i motorini. A Milano sono arrivati i motorini, devo dire che io personalmente non l'ho provato, mi fa un po' paura perché sono motorini molto grossi, molto pesanti, sono un modello di motorino secondo me un po' da uomo, per cui super scooterone. Sì, super scooterone, io ne ho un po' paura, all'interno c'è anche il casco, c'è tutto, quindi lanciamo questa idea, anche motorini più agili, per le donne magari un po' minute, sì, piccolette. Sì. Invece sui monopattini pensi che non ci accontentano? No, secondo me no. Allora, quello che ci serve è l'auto che possa cogliere il cane. Perché sì, per i bambini siamo già posti, sì, e poi scooter un po' più di servizio. Sì, è un pochino di assistenza tecnica, se mi posso permettere da utente io lo chiederei, nel senso che appunto può succede, non dico sempre, non dico spesso, ma insomma ogni tanto qualche inconveniente tecnico che ovviamente ti lascia a piedi. Infatti, no, invece la disavventura che voglio segnalare io, per modo di dire, in realtà noi eravamo così con i miei amici tutti pronti a fare la prima esperienza con il car sharing, siamo andati in una zona molto gettonata e frequentata di Milano. Milano e tutto il risparmio che abbiamo fatto avendo preso la macchina in tre l'abbiamo vanificato nella ricerca del parcheggio, perché non trovavamo un cavolo di posto dove metterla, per cui nonostante fosse la più piccolina di tutte non c'era. Io se posso una cosa velocissima vi racconto, perché poi appunto abbiamo letto che c'è un raggio circoscritto, non si può uscire dalla città, è un servizio relativo alla città, quindi all'ambito cittadino, però io sono andata anche all'IKEA col car sharing, non ho un'auto, dovevo comprare un mobile, sono andata all'IKEA, ovviamente non puoi parcheggiarlo, nel senso che non puoi chiudere il noleggio. Quindi mentre tu sei all'interno dell'IKEA continui a pagare perché tieni l'auto in sosta. Però io ho fatto rapidamente, ho comprato la mia libreria, che dovevo ricaricato tutto sulla macchina, sono tornata, in totale ho speso, se non mi ricordo male, 20 euro. Che è insomma una cifra... Un po' altina o no? Beh, no. Insomma, considerando il tragitto, perché l'IKEA proprio non è in città, il tempo speso per la ricerca del mobile che dovevo comprare e il ritorno, secondo me tutto sommato ne vale la pena. Molto meno del noleggio di un'auto, se vogliamo... Ah beh, sì, certo. Io ho capito che devo farmi amica sua. Non mi vuoi più? No, tu sì, perché certo, rimani, sei nella mia vita. Però questo mi dà anche lo spunto per chiedere smart, Francesca, ai nostri brava. Amici, come scegliete i vostri amici? Ci sentiamo dopo le informazioni sul traffico. Ciao, guarda, Francesca. Che vengo, Grazie, grazie. Ciao, ciao. Cuore e denari. E l'amico è una persona schietta con... Tu sai che sei una donna fortunata, anch'io, eh? Però perché io di più, sentiamo. No, tutte e due in egual misura, in sharing. Perché ti faccio stare bene, sì. Ti tengo compagnia, sì. Ti accompagno nelle trasferte, tra poco ce n'è una. Il prossimo punto mi piace tanto. Ti passo le ricette che tu non fai mai. Però ce le ho tutte. Ti faccio ridere. Sì, è vero. Anche un po' arrabbiare. No, ma mai, sì. No. Però, attenzione, ti allungo la vita e funziona come un antidolorifico. Bene. Come mai hai tutte queste virtù? Perché sono una tua amica. Una piccola medicinale. Per questo volevo venire all'inizio della puntata e provare a darti un pizzicotto, tirarti i capelli, insomma venire alle mani, perché volevo capire se è vero quanto hanno scritto questi ricercatori di Oxford, che sostengono che gli amici sono più potenti della morfina, quindi abbassano, tengono bassa la soglia del dolore, no? E alzano in questo caso, e quindi ci fanno sopportare il dolore fisico in modo migliore. E certo che è un bel ruolo quello degli amici, ma noi ne prendiamo spunto per raccontare un po' la nostra visione dell'amicizia, quanto e come siamo amici, siamo disposti a condividere con una persona parte di noi, parte del nostro tempo, dedicargli ascolto. Quanti amici veri abbiamo? Ci hanno deluso? Siamo riusciti a superare il tradimento di un amico? Perché insomma l'amicizia è una cosa molto complessa, è un po' come una storia d'amore. Allora, dato che il tema è scottante, perché senza amici non solo si soffre di più, ma non saremo noi, abbiamo invitato un grande amico di Cuore Denari, il dottor Francesco Aquilar, che è presidente dell'Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale, che sull'amicizia ha dedicato un post molto bello sul Daily Lab. Buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. E che di amicizia ha parlato su uno dei suoi libri, quelli più recentemente di recente pubblicato, dottor Aquilar. Mi ricorda un attimo, mi faccia d'amico, mi ricordi il titolo? E come no, in riconoscere le emozioni, ho dedicato un intero capitolo a questo tema, perché le emozioni dell'amicizia sono importantissime. E come si diceva prima, il tradimento dell'amico si è dimostrato più doloroso di quello del partner romantico, perché in qualche modo del partner romantico ci aspettiamo la possibilità del tradimento, ma dall'amico non ce l'aspettiamo e la sorpresa ci fa un effetto peggiore. Intanto, dottor Aquilar, voglio leggere il messaggio di un ascoltatore, Paolo da Milano, che leggo un po' in treccia tutti i temi che abbiamo trattato oggi. Deborah, lo vuoi leggere? Deborah e Nicoletta, allora, il car sharing. Eccolo, sì. È meno conveniente del corteggiatore uomo automunito che ti porta dove vuoi, viene da IKEA con te. Paolo, lei lo sa bene che quando ad un uomo si pronuncia il nome IKEA, scappa a gambe levate, quindi altro che corteggiatore che ti porta là. Allora, torniamo a noi, all'amicizia, dottor Aquilar. Nel preparare questa puntata, questa riflessione da proporre ai nostri ascoltatori a voce alta, mi sono resa conto che noi chiamiamo amicizia tante cose diverse, perché a volte sono surrogati dell'amicizia, confondiamo gli amici con i conoscenti, per gli amici sono anche i colleghi di lavoro con cui abbiamo un feeling, amici a volte sono, cercano di essere anche gli ex, tanto che molti rapporti d'amore finiscono con una promessa. Però mi raccomando, restiamo amici. Allora, stando con i piedi per terra, senza cadere nel rischio di idealizzare troppo l'amicizia, vogliamo provare a dare una definizione? Io penso che potrebbe essere un esercizio utile a ciascuno di noi. Dottor Aquilar, ci aiuta in questa esercitazione? Certamente, certamente, perché l'amicizia, al contrario di molte altre relazioni, non è definita dal contenuto dell'interazione. È una relazione volontaria e positiva ed è una modalità di relazione interpersonale che ha in comune con l'amore romantico l'intimità e la possibilità di lasciarsi conoscere, ma che non ha rispetto all'amore romantico la componente della passione. E nasce normalmente o da forti esperienze di condivisione, e queste sono le amicizie storiche, quelle che nascono nella scuola, quelle che nascono quando si condivide un'esperienza forte emotivamente significativa, oppure nasce per affinità elettive, perché io incontro una persona che mi sembra in qualche modo interessante e mi farebbe piacere di aprirmi sinceramente un po' per volta con lui o con lei. Allora, manda un messaggio molto triste, una nostra ascoltatore che ci scrive: buongiorno ragazze, avevo molte amiche quando ero ricca, adesso non lo sono più e amici non ne ho più e soffro, ma vado avanti. Quanta delusione, dottor Aquilar, in questo messaggio. C'è una grande delusione, ma c'è anche, come appunto si diceva prima, il fatto che probabilmente quelle persone non erano delle amiche e la nostra ascoltatrice non aveva avuto modo di riconoscere le sue emozioni che certamente gliel'avevano segnalato. Anche nella scelta del candidato, perché molte persone hanno dolore nelle amicizie perché sbagliano la selezione, come alcune altre persone sbagliano la selezione del candidato partner, prendono persone incapaci di amare e ovviamente se la persona è incapace di amare non sarà adeguato né per fare l'amico né per fare il partner. Quindi una parte di queste delusioni in qualche modo è nostra responsabilità, abbiamo scelto male le persone e possiamo sempre imparare a sceglierle meglio. Un'altra parte invece è dovuta al fatto che l'amico o l'amica può avere delle evoluzioni o involuzioni personali che vanno in una direzione diversa rispetto all'etica dell'amicizia. La cosa interessante delle ricerche sull'amicizia è che c'è bisogno di un'etica comune. L'unica eccezione è quando si è vissuta insieme un'esperienza di forte condivisione. In quel caso possiamo essere amici anche di persone con cui non condividiamo l'etica. Dottor Aquilar, noi abbiamo estrapolato dal suo libro Riconoscere le emozioni 10 domande sull'amicizia che ognuno di noi può fare a se stesso per misurare un po' l'idea di amicizia e anche per capire che amico siamo, perché tanto esigiamo molto dagli altri e poi su di noi no, siamo sempre molto generosi, cerchiamo di non siamo spesso in grado di valutare i nostri limiti. Li abbiamo messi sulle pagine di Cuore Denari, ma di questi decalogo, no, per capire l'amicizia, estrapoliamo 2 domande attivanti per i nostri ascoltatori, quelle che possono fare la differenza e quindi per aiutare noi stessi ad essere più amici e nello stesso tempo a cercare, no, l'amico giusto per noi e a mantenere l'amicizia, perché l'amicizia poi richiede anche di un impegno, va mantenuta, nutrita, è un po' come una piantina, va coltivata. Certamente, e va saputa coltivare in qualche modo. Estrapolando 2 domande, io andrei sulla 8ª, cioè siamo soddisfatti degli amici che abbiamo? Perché questo ci può portare a allargare il numero delle nostre amicizie, a trovare altri amici che possano essere più adeguati a noi come siamo oggi, mentre magari gli amici che possiamo avere, se non ci soddisfano, sono adeguati a come eravamo ieri. E la seconda domanda, che è molto importante, è proprio la prima: in che modo diventiamo amici di qualcuno? Ognuno di noi potrebbe identificare qual è il sistema attraverso il quale è diventato amico di qualcuno e domandarsi attraverso quali codici. Che cosa mi ha spinto a voler diventare amico o amica di quella persona? E l'implicazione è anche quanto dolore abbiamo provato se volevamo diventare amici di qualcuno che comunque ci ha respinto. dobbiamo mettere anche in conto un po' di delusione nelle amicizie anche consolidate, che durano a lungo. Insomma, dobbiamo essere disposti anche ogni tanto a stringere un po' i denti, perché anche questa, no, fa parte dell'amicizia. Dottor Aquilar, una battuta secca e poi ci trasferiamo magari su Facebook. Un livello di tolleranza nei confronti del limite dell'amico sicuramente è indispensabile, poiché nessuno di noi è perfetto, non possiamo pretendere che il nostro amico sia perfetto. Però il livello di tolleranza deve avere un limite, oltre il quale è opportuno liberarci di quelli che ormai sono diventati ex amici e che possono diventare solo una zavorra. Grazie dottor Aquilar per essere stato con noi, buona giornata, noi ci sentiamo domani. A domani.